No, non sbagli assolutamente. Infatti, il nostro primo impatto è stato un po' di desolazione. Cioè, noi siamo partiti con questa barca che già era una barca piccola per affrontare l'Adda. Quindi, per il Po era estremamente piccola, era proprio una barchettina. Noi veniamo da Rimini, quindi poteva essere quasi un moscone, esatto. L'idea che abbiamo avuto era quella. E, tra l'altro, con un fiume come il Po, che invece ha delle correnti molto forti, molto decise, per cui risalire con una barca al Po, ci sono stati dei punti in cui è stato anche difficile, complice la nostra inesperienza, ma sicuramente il Po è un fiume che richiede anche una certa capacità. Ma al di là di tutto, al di là anche delle nostre mancanze, quello che ci ha colpito era la totale assenza di ogni cosa, cioè non c'è niente, non c'è nessuno, non ci sono attracchi, non ci sono persone, non ci sono paesi, se non una chiesa con una strada e quattro case attorno. È proprio una. A me ha dato l'idea di essere una zona di frontiera. Noi durante il viaggio abbiamo parlato con un sacco di persone, ognuno, giustamente, come sempre, ha la sua teoria sul perché il Po sia finito così. C'è chi presuppone che il Po sia stato volutamente abbandonato per lasciare spazio alle aziende, chi dice che invece è stata un'operazione per privilegiare il traffico su ruote. Insomma, esistono migliaia di teorie, probabilmente ognuna è in parte vera e in parte falsa. Fatto sta che il Po è una zona di frontiera. Oggi noi viviamo nelle città, ci spostiamo quasi solo in macchina o in treno e tutto ciò che esce dalle strade, tutto ciò che esce dai percorsi urbani diventa zona di frontiera, cioè diventa una zona in cui non è più così facile e naturale andare. L'idea di essere con una barca in mezzo a un fiume, muoversi così, a seconda anche delle proprie esigenze, delle proprie voglie, è una cosa che effettivamente lascia anche un po' straniti, dà un certo senso di libertà, un senso che forse non è neanche poi così comune. La seconda cosa che abbiamo capito, dopo aver scoperto che la zona è abbandonata, è che in realtà è stata, come tutte le zone di frontiera, ripopolata da chi è arrivato per primo e da chi è anche il più forte. Noi ci siamo trovati in mezzo a una faida tra tedeschi e ungheresi. Io devo essere sincero, non ne avevo la più pallida idea, penso neanche Michele, pure come diceva lui, il Po lo abbiamo attraversato e ci siamo passati centinaia di volte. Chi è che non lo fa spostandosi da Milano a Roma, Rimini o comunque qualsiasi città? Eppure c'è una guerra tra pescatori tedeschi che muovono 20.000 turisti l'anno che vengono sul Po a pescare il siluro, e pescatori di frodo ungheresi che pescano con le bombe o comunque con mezzi assolutamente disumani, che prendono questo siluro e lo portano nei mercati del centro Europa. Questo chi lo sa? Nessuno. Un altro esempio era quello di Villanova Marchesana, questo paesino assolutamente desolato. Le uniche zone in cui il Po acquista un po' di civiltà, acquista un po' di quel fascino letterario di cui parlava Michele all'inizio, sono le grandi città. Cremona, in parte Ferrara, ma sono proprio delle isole. In realtà attraversare il Po, mi ripeto, ma a me ha proprio dato quest'idea di viaggio nell'ignoto, di una frontiera in cui non si sa esattamente dove si va a finire. Anche perché appunto quello che si dice del Po non sempre è vero. Noi ci siamo ritrovati più volte in difficoltà. Non c'è benzina, ci si trova in mezzo a un fiume con una barca senza avere più benzina, il motore che si spegne, la corrente che è una corrente molto forte, non è una situazione particolarmente piacevole. Non c'è nessuno a cui fare capo, nessuno da chiamare. Quindi effettivamente chi attraversa il Po, chi passa sul fiume, lo fa sostanzialmente a suo rischio e pericolo. Poi in realtà si possono dare mille teorie su cosa sia successo lungo il fiume. Io personalmente ho la mia, non so se poi è anche quella di Michele, è il fatto che sostanzialmente la natura umana porta a muoversi secondo la legge del massimo risultato col minimo sforzo. E siccome oggi muoversi con una certa economia, con determinati mezzi, che sono soprattutto quelli su ruota, e con certe logiche, fa diventare assolutamente svantaggioso vivere il fiume in qualsiasi modo. Cioè, io capisco le persone che abbiamo incontrato e ci dicevano: ma chi ce lo fa fare di continuare a fare qualsiasi lavoro con la barca, a portare avanti certe tradizioni? Cioè, uno lo fa se tutto sommato se lo può permettere, perché non c'è modo di vivere così. E E quindi che sia stato voluto, che sia una casualità, che il Po sia semplicemente una vittima del progresso come tante altre, oggi come oggi è una zona che acquista anche un fascino tutto sommato selvaggio. Un paragone che a noi è venuto in mente durante un giorno di viaggio all'attracco a San Benedetto del Po, dove si trova l'abbazia di Polirone, che quest'anno tra l'altro festeggia il millenario perché è stata fondata nel 1007, e proprio questi monaci che nel 1007 sono arrivati in questa zona desolata, perché dopo la caduta dell'Impero Romano erano zone completamente abbandonate, e si è trovata a dover ridare vita a tutto l'ecosistema, a ricreare un sistema economico che in qualche modo funzionasse. Oggi, fatte ovviamente le debite distinzioni, sta succedendo qualcosa del genere. Quella zona è stata abbandonata da chi in qualche modo la controllava, ci viveva, gestiva i traffici ed è stata acquisita da altri che sono arrivati e ci stanno facendo quello che reputano giusto, insomma.